Il fratello invidioso ed il genio verde. Molto tempo fa, nel regno di Gleygoth, viveva un soldato chiamato David. David era il comandante in capo del re ed era rispettato da tutti nel regno. I ragazzini lo ammiravano e gli adulti desideravano avere figli come lui. David! Grazie, David. Sei così gentile. Quando sarò grande, voglio essere come te. Tutti adoravano David, tranne suo fratello Dennis. Dennis era il fratello minore di David ed era invidioso di lui. Era un codardo e, a differenza di suo fratello, non era molto apprezzato dalla gente. David, tuttavia, amava suo fratello. Fratello, hai mangiato? Oh, non ti preoccupare per me. E per favore, tieni il tuo finto interesse per te. Ma fratello... Ma Dennis non lo ascoltava. Un giorno, quando David ricevette l'ennesima medaglia per il suo coraggio dal re, Dennis divenne furioso. Basta così, non posso più sopportarlo. Non posso più vivere all'ombra di mio fratello. È tempo che me ne vada. E così partì per il regno vicino, a cavallo. Cavalcò per giorni e finalmente raggiunse una foresta dove decise di fermarsi e riposare. Finalmente sono lontano da mio fratello e dai suoi amici. Persino il re non riesce a smettere di lodarlo. Oh! In quel momento i suoi occhi caddero su una lampada che giaceva sotto un albero. Brillava intensamente, rendendo Dennis molto curioso. Questa lampada ha uno strano aspetto. La raccolse e la ispezionò da vicino. Sembra vuota e inutile. Tuttavia, devo dire che è molto brillante. Meglio se la tengo con me. Potrei riuscire a venderla nel mercato del villaggio vicino e ricavarne qualcosa. Quindi mise la lampada nella sua borsa e cercò qualcosa da mangiare. Raccolse abbastanza mele per se stesso e si mise sotto l'albero per mangiarle. Mentre stava per dare un morso a una mela, sentì una voce chiamarlo. Maestro, nutrimi, maestro, ho tanta fame. Chi è? Maestro, sono io, il tuo servo. Fammi uscire, maestro, e nutrimi, e io ti darò tutto ciò che desideri. Dennis fu scioccato perché si rese conto che la voce veniva dalla sua borsa. Starò forse sognando? Infilò la mano nella borsa e prese la lampada. Ciao, c'è nessuno? Sì, maestro, ci sono io. Maestro, non ti preoccupare, sono il tuo servo. Basta che strofini la lampada e io uscirò. Come faccio a sapere che non mi farei del male? Perché hai la lampada e chiunque abbia la lampada è il mio padrone. Dennis pensò fra sé e sé per un po'. Beh, non c'è nulla di male nel provare. E così strofinò la lampada e subito ne uscì del fumo colorato. Il fumo si trasformò poi in un genio verde. Dennis ne fu incredibilmente stupito. Maestro, grazie per avermi fatto uscire. Ho molta fame. Ti dispiace se mangio quelle mele? Fai pure. Dennis guardò il genio mangiare tutte le mele in un attimo. Poi il genio si strofinò la pancia e fece un rum. Scusami. Ora, maestro, dimmi cosa desideri ed esaudirò tutti i tuoi desideri in un attimo. Costruisci una casa piena di tutti i lussi del mondo che nemmeno un re possieda. Come desideri, maestro. E subito, da una nuvola di fumo, emerse una magnifica casa. Era di color oro e aveva uccelli che cinguettavano tutto intorno. Wow, è stupefacente. Cos'altro desideri, maestro? Voglio che porti la principessa Lana da me. Ma... Maestro, questo significherebbe rapirla. Sei sicuro di volerlo fare? Sì, assolutamente. Questo è l'unico modo per vendicarmi di mio fratello, dal momento che è follemente innamorato di lei. Come desideri, maestro. Quindi il genio andò a palazzo e si intrufolò nella stanza della principessa Lana. La principessa stava dormendo. Pensando che fosse il momento migliore, il genio usò la magia per far scomparire la principessa. Ma proprio in quel momento, la cameriera della principessa Lana entrò nella sua stanza e, vedendo il genio, urlò a gran voce. Oh! La cameriera corse subito fuori dalla stanza per chiamare le guardie. Il genio schioccò immediatamente le dita e scomparve all'istante. David, insieme alle guardie, arrivò correndo dentro la stanza, ma era ormai troppo tardi. Nella foresta, nella casa di Dennis, apparvero la principessa ed il genio. La principessa si svegliò dal sonno e, trovandosi in un ambiente diverso, fu presa dal panico. Dove? Dove mi trovo? Cos'è successo? Mi dispiace, principessa, ma mi è stato ordinato di portarti qui dal maestro. Il maestro? Sei un vero genio? Sto sognando? Proprio allora, Dennis entrò nella stanza battendo le mani. Benvenuta, principessa, o dovrei dire prigioniera. Dennis? Tu? Cosa vuoi da me? Cosa succede? Succede che ti ho rapita in modo da poter dare una lezione a David e a tutti quanti a Gleygoth. Una lezione? Di cosa stai parlando? Nel regno, invece, il re aveva il cuore spezzato. Non preoccuparti, mio re. Riporterò indietro tua figlia. Ma come farai, David? È stata rapita da un genio. Con l'aiuto di questa. David spiegò al re che la sua bussola era in grado di rintracciare gli esseri soprannaturali. Secondo la direzione verso cui punta la freccia, si trova nella grande foresta di Alban. Allora vai subito, coraggioso David, e riporta indietro mia figlia. Portami anche la persona che ha osato catturarla. Gli darò la punizione più severa. David annuì e se ne andò con i soldati. In che modo il mio rapimento darà una lezione a David? Oh, perché è innamorato di te! La principessa Lana fu così felice di sentirlo che si dimenticò di essere stata rapita. Cosa? Lui è innamorato di me? Sono innamorata di lui da secoli! Oh, grazie mille, Dennis, sei un tesoro! Cosa? Tesoro? Non sono un tesoro! Io sono Dennis, il maestro dei geni! Tecnicamente, maestro, sono solo uno, quindi... Zitto! Non è importante! Niente di tutto questo lo è! Il punto è che ti ho rapita e ti scambierò con il regno di Gleygoth! E poi, una volta che sarò re, imprigionerò David e sarò felice per sempre! Dennis, dai, sul serio! Conosci tuo fratello più di chiunque altro al mondo. Pensi che perderà contro di te questo tuo uomo verde? Ehi, mostra un po' di rispetto. Mi hai rapita da casa mia mentre dormivo. Come posso mostrare rispetto? Mi dispiace. Che succede qui? Ragazzi, fate amicizia? Ho una missione io. Proprio allora la finestra si spalancò e da essa entrò David, aggrappato ad una corda. Scusa, sono in ritardo. Stai bene, vero, principessa? Oh, sì, sto perfettamente bene. Non un graffio. David sorrise e si girò dall'altra parte della stanza. Vedendo suo fratello con il genio, fu scioccato. Dennis, tu? Sì, io. Sono io quello che l'ha rapita. Ma perché? Perché ti odio. Odio che tutti ti ammirino e ti adorino, mentre nessuno si preoccupa di me. Mi hai messo in ombra per tutta la vita. Non ce la faccio più. Ma, fratellino, ti voglio bene. Basta, genio, catturalo subito. Il genio rimase fermo e non si mosse. Dennis si voltò verso di lui. Genio? Beh, è impotente contro la mia bussola. Mi dispiace, fratello, ma la tua piccola avventura finisce qui. Furioso, Dennis si avventò su David. Ma proprio in quel momento le guardie si fecero avanti e lo catturarono. David rimise il genio nella lampada e lo regalò alla principessa Lana. Questo è per te, mia principessa. Dovrebbe essere in buone mani. La principessa Lana sorrise e abbracciò David. Oh, ti amo, David! Lo stesso giorno, David tornò a palazzo con la principessa e presentò suo fratello davanti al re. Il re era felice di essere riunito con sua figlia. Si abbracciarono e poi il re si voltò verso David. Sono così orgoglioso di te, David. Hai dimostrato ancora una volta che sei un grande guerriero. Dimmi, quale punizione vuoi che dia a tuo fratello? Oh, re, so che è stato mio fratello a rapire la principessa e merita una punizione. Ma il cuore di un fratello non può mai desiderare di fare del male al fratello. Ecco perché ti chiedo di liberare Dennis e prometto che non causerà mai alcun danno più ad alcuna persona. Sentendo questo, Dennis scoppiò in lacrime. Si rese conto di quanto suo fratello lo amasse. Subito si inginocchiò. Ho sbagliato così tanto con te. Oggi so perché ti chiamano il più grande. Il re, che vide tutto, fu molto commosso. Sembra che tu abbia imparato la lezione, Dennis, ma devo punirti comunque. Dunque, ti nomino cavaliere dell'esercito reale. In una grande cerimonia, David e la principessa Lana si sposarono. Dennis era molto felice. E quanto al genio? Beh, venne liberato dalla principessa Lana, ma scelse di rimanere nel regno ed insegnare ai bambini la virtù della gentilezza.